parole, sai, non parlano di me, inconsapevoli bugie. Le tue paure, quelle non dicono di te, dei tuoi silenzi opachi. Cade giù, è solo un temporale in cui annego l'anima. E mi ritrovo solo anch'io, nessuno può ascoltare e capire come. Eppure lo so, amore mio, questa realtà è tremenda e sbagliata. Chi può fare davvero qualcosa? Chi può resistere?